padre dilaniata divisa dai suoi figli, polifonie bulgare tramandate come gigli negli altari di una chiesa ortodossa. Celebra la divisione, fanno festa, pregano, pregano, pregano la pace universale, ma il loro sguardo si è perso nelle steppe di un duro cuore. A Sofia, cupole d'oro nascondono discordia, Roma è troppo lontana dal mondo, Mosca una bestemmia, gli imperatori crollano, le religioni restano a ricordarci fasti di un tempo senza animo. Pregano, pregano, pregano per la pace universale, ma il loro sguardo si è perso nelle steppe di un duro cuore. I talebani non sono solo musulmani, occhio per occhio e saremo tutti ciechi senza domani. Madre dilaniata divisa dai suoi figli, crollerà come un castello di carta ogni stella d'Oriente che oggi mostra i suoi artigli. Pregano, pregano, pregano per la pace universale, ma il loro sguardo si è perso nelle steppe di un duro cuore. Pregano, pregano, pregano per la pace universale, ma il loro sguardo si è perso nelle steppe di un duro cuore.